canale 10 c'è qualcuno? Canale 10 c'è qualcuno, grazie. Chi è? Ciao, Gio. Ciao. Oh, sto provando a fare, ragazzi, mi stavo entrando nel computer. Sentivo che c'era una specie di pianoforte, qualcosa del genere. Ehi, cappa. Adesso no, qua no. Adesso non mi sta entrando. Ok. Com'è la radio? Già. Oh, c'è chi ha? Ok. Vabbè, si chiara così. Aspetta a vedere che faccio una cosa, se rimane sempre chiara. Ok. Vieni a vedere adesso così com'è. Sempre buono. Sempre buono. Allora lo lascio così. Ok. Mi sta entrando. Adesso mi sta entrando. Ho aumentato un pochettino, mi sta entrando. Sempre si sente questo piano. No, no, no, no. No, è il computer, non è un piano. Computer che normalmente mi sta entrando. Sembra che stia suonando un piano in sottofondo. Adesso no, per... No, no, adesso. Capo. No, sto provando una... 231. Buono, buono. Via. Vabbè, ma è troppo ingombrato. 747 dalle stesse watt occupa poco spazio, capito? Poi il 231 non è valvole, è un casino. Vabbè, non è quello il problema. Lo sto provando un po' accendendo perché sono tanto tempo che non li accendo. Ma poi le valvole si trovano quando si consumano. Come? Quando si consumano le valvole si trovano. No, penso di sì. E costano un po', però già si troveranno. Magari su internet, credo. Infatti. No, ma sono buone. Questo mi sta dando 90 adesso. A me mi dà anche 100 747, però dipende con che apparecchio lo uso. Dipende come un po' le radio, anche a me a volte mi dà 100, a volte mi dà 80, 90, dipende. Sì, 80 sempre, 80 me dà sempre, poi con una radio me ne dà 100. Capo, sì. Ok, io ci vedrei, lo spengo a vedere quanto, guarda se lo smetto, a vedere quanto scende. Ok, adesso sono con i soliti 10 watt. È sceso un bel po', Non avevo gli occhiali, però è sceso un bel po'. Aspetta che metto gli occhiali e ti dico sicuro. Capo. Comunque sta funzionando, perché me ne accorgo da qua. Vedi a vedere, così. Così si attacca? No, adesso sono attaccato. Così sono attaccato adesso. E così di nuovo, adesso lo stacco di nuovo. Ok, adesso è attaccato di nuovo. Da 9.20 a 9.30. Vabbè, già sta tirando, siamo vicini. Sì, ma è quello che dà, è 100 watt da quel tanto lì. Sì, è giusto, è giusto. Va bene, va bene. Non è un problema. Adesso lo lascio così, ce l'ho un bel po' acceso, ce l'ho. Ci metterei un uovo sopra, guai. Puoi parlare di uova, io ci sono aperto un uovo. C'era come quando è sotto, c'era presente il tuono. Era come quando era sotto, sicuramente sono state combatte quelle uova. Tutte e sei così erano. E vuol dire che erano di tanto tempo. È presente il tuono, come quando lo fai sotto, quasi sotto era. Ed era adesso dentro. Quelli sono uova che sono rimasti al sole e poi quando le hanno incartonate le hanno vendute. Meno male che me li sono capizzate, se no me le aveva mangiate. Vabbè, quando lo apri che ne accorgi. Passata la voglia a mangiare uova con piselli. Ma com'è non me la giù, non la giù. Ma io ho sempre il vizio di metterli nel piatto prima di metterli, perché una volta mi sono trovato un uovo col pulcino dentro, fianco, caro, si può dire assai. Sono uova, quello dipende anche da chi li compri, dove li compri. Magari veniva venduti all'inizio erano freschi, poi li avranno tenuti in negozio, li avranno tenuti da parte troppo tempo, capito? E succede quello. Secondo me erano tenuti vicino a qualche frigorifero, il calore del motore li ha fatti diventare sodi, perché la data è giusta, capito? La data non era scaduta. Sì. Io mi ricordo quando ero ragazzo, noi avevamo le galline, e le galline erano stato bravo, e le uova erano per la campagna, ad agosto quindi andavamo in un po' di figli, a te stanno con il campanello. Mi ha fatto scendere giù e non era neanche per me. E l'altro giorno quello delle che vende le case, come si chiama? Tema casa, no? Mi ha suonato il campanello, ma è scintato dopo pranzo. E giù si domandano a mano. Se mettiamo a casa non è che posso dire il portone. E c'è fuori la cassetta per la pubblicità, perché cavolo suonate. Ehi, già l'ho sentito, fra. Stasera come ho fatto un break mi ha risposto subito lo spagnolo. Adesso questo. Non mi dice sono arrivato. Sì, vabbè. Kappa. Sono sparatica. Ti sto dicendo che usano potenze esorbitanti da quelle parti. A parte che magari li possono usare, perché non c'è niente nessuno, e più vuol dire che hanno corrente forte. E di no, è la corrente succhia, infatti questo freddo, anche se poco, succhia. I valvolari, sono micidiali, i valvolari per scaldare le valvole assorbono quei correnti, non sono come il transistorizzato. No, il transistorizzato piace vai. Infatti, e in effetti io ho sempre preferito quelli transistorizzati piuttosto che i valvolari, anche se i valvolari dicono a me mi vai davanti si cosa, andare bene tutti e due. Sì, alla fine fanno bene tutti e due, solo che io ce li ho e io da vuota, vediamo. Ah, ho visto che vende uno dalla me. Vendere non ne vendo neanche uno, perché me li tengo tutti e due. Questo che sto usando adesso me l'hanno regalato insieme a questa radio. Del più nuovo così? È nuovo, ed è nuovo. Li metti in parallelo e fai uscire con 200 watt. E allora? Non sembra che ci indietro a tutti, no? Fai come metti una bassona che una notte era Modurelli, stavano facendo gare cosa, con Badesi stavano parlando. È entrato e ha attaccato il lineare questo qua, senza essere drumito, con il tasto abbassato, e da qui la fatto diventare la faccia tutta niente, è copiato, il lineare si sono scoppiate le valvole. Questo dice che ha fatto tutto l'appartamento niente. Pericolose sono, le valvole sono pericolose. Attention my friend, Italy from Sardinia. Inglese mi sono. Stasera era pieno di spagnoli, adesso l'altro viene. Quindi se vuole uova. Uova e volete di quelle già sole. Già pronte. Lui era la compagnia mia, dove? Perché le ho ordinate lì. Le ho prese lì a Corte Santa Maria, ci abbiamo fatto portare la spesa a casa. E sono tutte così, ho detto, vabbè, le uova ci sono, non le compro quando sarà stata la spesa oggi. Non le compro, tanto ci sono. E tra me ha fatto questo ragionamento, andò a Brindubi per fare il visino. Io me ne stavo già sognando. Ecco. E questo tu lei, tu, mia moglie li prende sempre dai tutti, li prende. Sempre bene che stiamo a fare uomo. Queste addirittura erano allevate a terra, le galline, non erano nemmeno di quelle razzolanti, so, di quelle allevate a terra, non so di quelle che tengono in gatto. Quelle non sono di quelle del pollaio, no? Nel pollaio sono in gatto, e gli danno da mangiare di così. E mentre quelle a terra sono quelle fatto bravo, no? E allora, per di quelle pare essere più fresche, boh, cazzo, cesso. Vabbè, interessante che ve ne sia avvisato, che non l'ha già mangiata, che se no che mangia di mai. Ebbene, uova devi stare attento, prima di buttarle dentro senza guardare devi controllarle, devi guardare, perché se ne accorgi subito se un uovo è guasto. Era duro, il tono era duro, capito? Tipo sodo era. Tu lo appigli, no? Di solito ho visto che quando lo butti si squaglia, no, quello rimaneva intero, capito? Rimaneva duro. Ehi, capo. Ehi, vuol dire che ha preso caldo parecchio, ma essere così. Vabbè, direi. Qualche cosa è successa perché non è possibile, non ne ho mai trovati uova così, la verità, questa è la prima volta. Quella volta là solo mi sono facendo le uova fritte con le cipolle, che a me mi piacciono tanto. E ho buttato il primo uovo, era tranquillo, ho buttato il secondo, sono fiago, e era rubidino, era malformato, ma già c'era. Ecco. O si è coricato qualche gatto sopra e le ha calmato. E le ha riso. E mi pare quella che l'avevo presa poi per un negozio alimentare, e sono fresche, mi ce le porta sempre questo signore, questo per l'altro, vabbè. I maghi di più da qui sono figli di blasto. Ecco. Come mai c'è l'hanno di un impatto? Perché avevano una chigena abbassata, sicuramente spolverando. Capo, vedi, adesso è la tua radio. Sto contento, papà, c'è un video qui, c'è una cosa là, posso lo leggere. Non me ne sono reso conto, perché deve essere come l'ho spolverato che ho mosso il macchinino, dai, succede. Capo, è certo che succede. Va bene, va bene. Beh, dici che me ne scendo giù adesso e vado a prendere il pelle. Vedo il travaglio? Tutti i giorni, bisogna metterci in sacco, non tutti i giorni, ma ogni due o tre giorni. A me un atleta mi ha detto che ne consuma quasi un sacco al giorno. Scusa che non ti ho capito che stavo parlando di verticale. Una mia cliente che io riportavo il pellet mi ha detto che ne consumava quasi un sacco al giorno la sua stufa. Dipende come la usi, dipende, ma se la usi passa, io la uso due, la uso, e un sacco mi fa anche due, tre giorni. E scalda bene. Voglia, ma non tutto il giorno è accesa, di solito la accendiamo verso l'una, le due. No, invece questa qua tutto il giorno, dalla mattina sino alla sera, sono anziani, capito, magari hanno freddo. Ah, allora sì che lo consumi un sacco già, allora sì, tutto il giorno, vedi che aspetta, no, noi lo accendiamo tardi, dai, perché la mattina cosa accendi? La mattina se prendo una cosa o l'altra, però hai bisogno della stufa. Vabbè, il movimento è che scaldi, vabbè, ma questi sono anziani, magari se lo accendono per quello, capito? Ma è un travaglio, te lo porta a te il pelle. No, vado io, me lo prendo io, così me lo porta. E poi io devo portare anche su, una volta che arriva dalla macchina, lo devo portare anche su, poi le scale. Se non ce l'hai qualche ripostino sotto a metterlo e poi se lo scegli sali a una ora. Ma d'inverno c'è troppa umidità e quello lì non va bene. No, mi ho preso un mobile e me l'ho messo qua all'entrata, vicino al portone. Me l'ho messo fuori. Ah, ho capito. Vabbè, lui la sta arrangiando come può. C'era il signore che non mi faceva lavorare molto. mi faceva portare una pedana di pelle, stava tutta la stagione col pelle, poi il prossimo anno me lo ordinava sempre, capito? E mi aiutava lui, lo scaricavo, metteva l'elettromarcia, scaricavo nel garage, c'aveva una pedana, ma lui si rassettava, che glielo passavo e lui si rassettava. Ecco, bene, ma c'è il garage in pieno terra però, grazie, e quello è diverso. Io se avrei avuto un garage non avrei fatto la pedana, no? Non avendo posto, massimo ne posso mettere 15-20 sacchi, non di più. Beh, se non è posto sì, è un casino questo pellet, poi si bucano i sacchi, ui, mamma mia, non ci voglio pensare, sempre con la scopa in mano, i clienti lo bucavano, cazzo, devi stare sempre con il cubone in mano a consegnare i sacchi. Ecco, poi ho notato una cosa, che sotto, nella pedana, sotto la pedana, non ci mettono niente, neanche un pezzo di cartone, e le pedane ci hanno i chiudi, cioè, e buca i sacchi. A me lo si dice, io fra quanto ne ha aggiustato di quel pellet, sempre con la scopa in mano, era appena aggiustato, cazzo, arrivava, lo pigliava, però secondo come lo prendevi si bucava. Ma certo, anche da dove li fanno? Devono mettere il cartone sotto, devono mettere. Chi vuole e non c'è niente da fare, così i sacchi non si bucano. Vabbè, sì, vabbè, dai, no, arriva solo con nylon attorno, cartone, c'ha il doppio nylon di quello grosso, però attorno per non caderle e basta. Le pedane sono tutte e quattro con i chiodi fuori, sembra fatto apposta. Infatti. Ok, a dopo, ciao. Attenzione, dici, c'è qualcuno. Whatever time suits you, like half six, about 6 o'clock I'd have to go to the building to try and get read up, but too well, yes, I'd try and get a few more loads on here myself, and there's a fella there who's come to help me. He's putting the silage into the passage there and all, to make help, so put your hands in there now. Ciao Antu, buonasera. E 60 minuti Antu, ma non è entrato nessuno. Lumari del Seccuga. E anch'io ho acceso adesso. Sono come un senza voce, mi manca, non riesco a parlare. E 91 a cantare. Sono come senza voce. A cingomino mi e per Natalino già sto a tutti a popolino tutto a posto i metri d'ordine e andare a trovare rispetti con Natalino sta popolino come è che si può e c'è più era a te e con funzioni che c'è in busta anche per tu casa a te e sono stato detto e Natalino mi critica. Cazzo, se c'è Curumari, ha già mandato a mia moglie a pigliare un accendino, ha già cotto pure a terra, che non funziona, ha già barrato. Ma dimmi tu, che prendi i miei accendini che non funzionano. Cazzo, ha già pigliato i miei cerini, ma ha preso i cerini, cazzo, pure quelli difettosi. Ma cosa cazzo? Qua, c'è un paio di nervi. Ma sì, faccio la mano io, ma la detta non funziona. Boh, cosa vuoi ti dica? E con ella dici che ha funzionato, mia moglie? L'ho tirato a terra perché non funzionava. E l'ho fatto in mille pezzi per i nervi. No, no, e cosa mi tengo? Un accendino non funziona. ci vado più a quel tabacchino, manco sigarette li compro più. Ma non ho rotto le scatole. E allora, quello che c'è sotto a casa? Cazzo, non ci, non ne piglio più sigarette lì, nulla, non ne piglio più un cazzo. Lui. Ma se accendi la giù mai prego come mugiri qua. C'è un paio di nervi che non ne posso più qua. Cazzo, ma per pure da parà. Ma ha pigliato i lumini, pure i lumini di fittusi. Dimmi tu. Vai, vai. Non mi dico più nulla. Eia, quando l'ha pigliato funzionava, l'ha portato qui e non funzionava più. Io sono qui a girare le balle, io a rifatti miei, figurati se l'accendino pure. Poi, vabbè là, me ne faccio in quel ci sentiamo Antura. No, negativo. E fregatene, fregatene.